24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani, già. L'ha capita? Andavo, farò un master in bersanese. Bei tempi quando sorridevano, quando non così non c'erano grandi schermaglie, quando sembrava tutta una cosa di tacchini, passerotti. Mamma mia, che sta succedendo, cari italiani? È il giorno in cui si elegge forse il Presidente della Repubblica. Buongiorno a tutti, ovviamente saluto anche Laura Faggin, oggi è in redazione con noi insieme all'Alpino, Peter Bescapè in regia come sempre. E che dire, mamma mia, quante le dobbiamo dire oggi. Intanto apriamo il Parlamento, la nostra Serranda si può alzare e Nicole Minetti ci può accogliere. Come sempre, Forza, forza gente, accorrete al Parlamento. Il Parlamento è un disastro. Generosi come Santa Claus. Un tumulto. Li paghiamo noi e con accordi, accordicchi. Inciuccione, hanno fatto l'inciuccione. Saluto Maurizio Tortorella, che è il vice direttore di Panorama. Maurizio, hanno fatto l'inciuccione. Puoi dirlo. Però voglio annunciare il Presidente della Repubblica con l'inno, eh? Noi abbiamo scelto il nostro Presidente della Repubblica. È il giorno dell'elezione e noi abbiamo scelto unanimemente il nostro Vincino. Vincino, ma... Presidente della Repubblica, immaginate che goduria. Lo accetto subito, sono nato per questo io. lo sapevamo. Sarebbe bellissimo. L'inno, il testo lo conosci, sì. Ma non è l'inno della CISL questo qua, mi sembrava, l'avevo sentito diverso. L'inno della CISL. Sì. Oh mamma mia, hanno fatto l'inciucione Franco Marini. Oh, la prova che è l'inciucione, il titolo di oggi del giornale. Marini presidente. Più prova di così che il giornale titola a caratteri cubitali. Vincino, allora, sarà Marini? Abbiamo Marino al comune e Marini al Quirinale, come dire. Secondo, vuoi sapere sì o no? E non lo hanno arrestato, cioè è nei guai il mio sondaggista preferito. Mao Mannheimer, perché? Sì, perché lui non compie mai reati, sono i reati che non riesce a darmi proprio le cifre esatte, no? Ecco. Qua le cose. Comunque, aspetta da Tunis di sapere. Ma ieri è vero che eri alla Camera? Sì. E che si dice? Allora, ieri c'erano 8 o 9 camerieri alla buvette, no? Oggi saranno 14 perché per in previsione di tutti i caffè, le cose, no? E quindi c'è proprio tanti straordinari là, erano tutti contenti e felici alla buvette. E poi c'era Civati che dava una settimana che dorme là dentro praticamente. A qualsiasi ora uno entra alla Camera trova Civati che cammina, fa ferme ai giornalisti. Infatti viene intervistato, dice io di qua, io di là, sotto, sopra, ecco qua. E poi non so, e Bersani no, Bersani non si è visto, no, Bersani ogni tanto si vede, ma passa veloce, non si ferma là dove sai perché? Perché era Bersani ieri, e vorrei, Maurizio, questa è Repubblica, dice che Bersani si è incontrato in gran segreto con Berlusconi, c'erano Enrico Letta, Migliavacca e Franceschini. Maurizio, hanno fatto l'inciucione per Marini. Io fino a che non vedo il nome sul... Ah beh, certo. Non ci credo. E per forza c'è il PD, sì. Attaccato in due. Oggi il Corriere dice che ribolle come una tonnara il PD. Le prime tre elezioni, come sai, sono a maggioranza dei due terzi, no? Sì. Si parte alle 10 stamattina, poi alle 16 del pomeriggio, e quindi servono, se i calcoli non sono sbagliati, 672 voti. 672, esatto. Che sono tutti i parlamentari più una serie di grandi elettori che fanno in un totale. Però guarda, io ho un calcolo qui che fa la stampa. Allora, sono 1.007 gli elettori. Togliamo 162 del Movimento 5 Stelle, quelli votano Rodotà, 39 della Lega che votano Dal Lago, 60 renziani più o meno, poi 45 di Vendola, poi ne mettono altri 24 possibili franchi tiratori anche nel centrodestra. Se arriva a 677 ce la farebbe per 5 voti. Così è un calcolo a spanne, A spanne. Perché poi ci sono molti. No, che c'è vicino? Qualche francotiratore pure dall'altra parte. Sì, ma li contano una decina. Vabbè, insomma, diciamo è sul filo della... Se la cosa è prima Marini, se Marini non ce la fa, D'Alema. D'Alema, questa allora, è la verità, è D'Alema. Con gustare della politica aspettano D'Alema. Maurizio, tu scommetti su D'Alema. Infatti, guarda, sì. Infatti prima l'alpino Peter Bescamè vi fa, mi ha scritto su Twitter, no? Ma chi ce la farà secondo te? Rodotà o Marini? E io, D'Alema, ma sempre D'Alema vince, sempre D'Alema in questo paese, e quindi ce la farà Massimo D'Alema. Tu ce lo vedi dietro che trama nel buio. No, ma perché trama? Fa politica, insomma. Sì, fa politica, sì, sì. No, per fa politica. Ormai gli vengono sciolte queste cose. Sì, vabbè. Comunque, sentiamo subito, appena Franco Marini, Matteo Renzi è andato da Daria Bignardi e così, ha detto la sua, come al solito, il solito giudizio pacato. Votare Franco Marini oggi significa fare un dispetto al paese, perché si sceglie una persona più per le esigenze degli addetti ai lavori che non per la scommessa sull'Italia. Fare un dispetto al paese, Maurizio, proprio pam, eccolo lì, subito Renzi, vabbè. Aveva già detto anche che appunto era recuperare fondamentalmente una persona che non era stata in grado di farsi eleggere. Sì, in Abruzzo, infatti. Sì. Esattamente, sì. Ma che Batosta pure Rodotà la ebbe nella sua storia politica. Una lotta tra due ottantenni là. Ma sì, infatti. Almeno uno fuma la pipa, no? Ci ricorda Pertini. Però l'altro c'ha la privacy, no? Per cui una volta letto è tutto privacy, coso, no? Passi fermati, non si sa più niente di nulla. Rodotà, no, cioè, se viene letto Rodotà, io cosa amo succede? Amo moltissimo la figlia di Rodotà. Ah, Maria Laura Rodotà. Del Corriere della Sera. È troppo brava. Cioè, praticamente Vincino dice: se viene eletto Rodotà dalla privacy, no? Cosa succede? Non si sa neanche come viene eletto, perché? Per privacy. Assolutamente. Non si... Tipo che sbaglia. Panorama metà tagliato dalla privacy, via. Via, basta, via. Tutti a casa. Io non so se riuscirò a fare qualche vignetto ancora. No, perché c'è la privacy. C'è la privacy. E quindi niente. Vabbè, ma Maurizio Tortorella, è la vittoria di Berlusconi? Perché ieri molti nel PD sono andati proprio da Bersani. Il Fatto dice che Bersani è dovuto scappare da una via secondaria ieri al Teatro Capranica, dove c'è stato... Erano 50, dai, però. Non lo so. Beh, lei folle, pare invece un milione di persone. No, erano 50 con il solito di quattro soliti col megafono. Beh, una cosa. Vabbè, allora il Fatto ha detto una cazzata. Tutti i giornali hanno detto una cazzata. Come dire. E io pure ero bravo all'epoca di Lotta Continua. Vedi quanti ne mettevamo? Secondo la questura erano 5.000, insomma, in questo caso. Si vede dalle foto, erano in sì, 25, erano in pochi. Foto. Però il partito in sé è molto, cioè molti nel partito dicono: ma insomma, ma abbiamo ceduto a Berlusconi. Maurizio, bisognava per forza trovare questo tipo di accordo. Io posso dire che io Bersani non lo capisco, proprio non lo capisco, perché per quasi due mesi a questo punto hanno fatto che seguire in maniera, posso usare un aggettivo forte, indecorosa, il Movimento 5 Stelle, e adesso propone Marini. C'è una contraddizione in termini piuttosto forte, perché a questo punto avrebbe fatto meglio sin dall'inizio a scegliere d'accordo con il PDL, con il centrodestra. Non riesco a capire. Non lo so, pare che ieri abbia scelto per tutto il giorno di puntare su Sergio Mattarella, ma Berlusconi non ci ha sentito da quel punto di vista. È ovvio. Marini è sicuramente più gradito al centrodestra, è stato un discreto presidente del Senato, ha una tradizione di moderazione, è stato il segretario della CISL, che forse è stato meno lontano dalle istanze quando il centrodestra ha governato, è un uomo sicuramente che Sì, ma insomma tutto paludato. Vincino, la rivoluzione del Movimento 5 Stelle va a franare sulle elezioni del Quirinale. Ma tu non vedevi bene la Gabanelli lì, la Milena Gabanelli? No. Poverina, guarda. No, si sarebbe annoiata a morte. Sì, è una cosa, uno dei posti più noiosi che c'è in realtà. Però poteva fare le inchieste sui conti del Quirinale, cioè passava le notizie sotto banco, no? Sui costi. Sì, passava le notizie sotto banco e poi... cioè poi doveva andare ogni giorno a vedere quella, arriva l'ambasciatore, gli porta le cose, quel capo di quell'altro, tutta gente noiosa di una certa età, non è un poi uno dei posti più divertenti che c'è. No, forse. Due chiacchiere con i corazzieri, insomma, magari uno. Corazzieri, questo sì. Corazzieri. Però non ce l'ha fatta Michele Ainis, quindi hai visto Vincino. Tu Michele c'hai... Ainis non ce l'ha fatta. No, ancora, no. Però non si può dire. Non si può dire. Non si può dire, non si perché può dire. Resta sempre sempre possibile. Il costituzionalista preferito dal Quirinale di oggi, non quello di domani. Ah. Però quello di oggi, io so per certo che l'ha chiamato due giorni fa proprio. Cioè Napolitano. A casa. Ha chiamato Ainis. Questo è uno scoop che vi posso dare. Napolitano, che si sono detti? Che scoop è? Cioè, non ho no, poi c'è come sta in famiglia, ho visto il suo libro, carino, però queste cose si dicono sempre cose noiose. Poi se anche fosse la telefonata, adesso ci sarà la privacy, quindi non si può sapere. Allora, sentite Grillo che tuona sulla scelta di Marini. Grillo, il Movimento 5 Stelle appoggia Rodotà e quindi ha detto è un modo per salvare il culo a Berlusconi. Non è un uomo che fa il ciuccio o il ciuccetti. Tenete presente che il Presidente della Repubblica è il capo del CSM. Il CSM è il Consiglio Superiore della Magistratura. E se metti uno che va bene a Berlusconi vuol dire che vogliono salvare il culo di Berlusconi. Io non lo voglio salvare, il culo di Berlusconi. Non lo voglio salvare ancora Beppe Grillo. Vabbè, in fase comizio, perché si vota in Friuli e quindi in Friuli da quelle parti. Ancora Beppe Grillo, sentite questa, Guardate che il gesto che hanno fatto Bersani e Berlusconi di chiudersi nella stanza di notte a decidere qual era il presidente dell'Italia è vergognoso, io non me lo dimentico questo, non me lo dimentico. E loro il loro candidato fino adesso è Valeria Marini, pensavo fosse Valeria Marini, non Marini. Valeria, Maurizio Tortorella, in questo impaziente della politica ci stava bene, anche Valeria Marini. Ci stava anche qui. Eccolo lì, lo sapevo, volevo tirar fuori. Però attenzione, io devo dare dopo il traffico, parlare di questo. La prima di copertina di Panorama. È uscito il libro di Mario Giordano, il direttore di TGCOM 24. No, esce martedì prossimo. No, cioè, non è uscito ancora. Esce martedì, no, ma me l'aveva detto anche Giordano, uscirà il mio libro. Io non vedo l'ora di invitarlo, lo voglio lunedì qui in onda, assolutamente. Per parlare dei politici e della casa, le case. Vincino, tu. Marini infatti ha un bel disastro, ne ha 230 credo. No, 220, poi adesso a Roma ne ha comprate 45 ultimamente. Vabbè, ma poi ha un bel problema. Se andasse al Quirinale, che gliene frega se le vende a tutti. Sì, ho capito, ai figli pure. Comunque andiamo così, per ordine, il traffico, la segreteria telefonica e poi le case dei politici e la copertina oggi di Panorama, svendesi la casta compra casa a metà prezzo, e te pareva. 24 mattino. Volevo dire che i politici pensano troppo alle poltrone e poco ai problemi del paese. Pensi, basterebbe un banalissimo decreto legge e a costo zero per lo Stato si potrebbero salvare centinaia di imprese edili e migliaia di posti di lavoro. Si dovrebbe semplicemente consentire ai costruttori la permuta dell'usato senza imposte. La situazione è veramente drammatica e insostenibile. Milan, sentivo che vi preoccupavate della discesa in piazza dei cittadini e della coesione sociale. Io non mi preoccuperei così tanto. L'italiano cialtrone è bravo a lamentarsi alla segreteria telefonica o dietro una tastiera, ma in piazza non scende, non è un cittadino, è un suddito, è sempre soltanto un suddito che si lamenta del re e aspetta che qualcun altro gli faccia la rivoluzione. Siamo sempre lì, che aspettiamo che arrivino gli americani. Mi piacerebbe strappare i baffi a D'Alema, strapparli proprio, Ciao Alessandro, sono Gianluca, ma ha finito quel rimbambito di Grillo di essere così arrogante? Perché deve smettere di essere così arrogante, di mandare questi messaggi trasversali quasi mafiosi, cioè un po' di orgoglio, Bersani, lo mandi a fare in culo. Ciao Alessandro. Vorrei Franca Rame come presidente perché è intelligente e simpatica. Vorrei che il 90% dei politici vadino in esilio in Siberia a cercare i mammut e tornare solo quando ne hanno trovati tre, con il piccone e le ciabatte in freddito. Vabbè, che immagine devastante questa, Vincino, no? I politici a cercare i mammut. No, però Franca Rame aveva belle. Sì, però che vadino, vorrei anche che si imparassero i congiuntivi, magari. Sì, vabbè, sì. Quello che vuole strappare i baffi ad Alema, l'immagine. Sì, ma proprio strapparli proprio. Strack. Attaccato lì. Vabbè, la casa, i politici. Maurizio, la casa. Vabbè, gli italiani si sa, amano la casa, il mattone, no? La sicurezza, la certezza. Rodotà un monolocale. Un monolocale in un quartiere di periferia. Ma si può dire per privacy? Non lo so. Ah, no, non lo possiamo dire. No, cancelliamo gli ultimi 10 secondi di Vicino. Allora, Maurizio Tortorella, svendesi, la casta compra casa a metà prezzo. Cioè, che vuol dire? Noi abbiamo approfondito 9 casi tra i tantissimi raccontati nel libro Tutti a casa di. È andato via, il nome, c'è stata la censura sul cellulare di Mario Giordano. In libreria del 23 aprile. E niente, c'è il cellulare, ma dove sei? Sei in una caverna? No, aspetta, mi ha vicino funzionato, mi senti meglio adesso. È la privacy che avanza. E quindi che fanno questi? Era l'agenzia delle entrate, il registro sindaco dei conti, Italo Bocchino e tanti altri hanno comprato casa con sconti notevoli da enti pubblici, assicurazioni, tutto in regola. Assolutamente lecito, però sono i privilegi che alla gente comune, alla gente normale. Cioè, quali sono questi enti? Se io busso, non so, a un ente che vende una casa, che fanno? Mi fanno un pernacchione. Mentre... Ma appunto, sì, in certi casi erano anche inquilini precedenti e quindi avevano il diritto di prelazione, quindi per carità sono cose, ripeto, in regola, però la stragrandissima maggioranza dei cittadini non hanno questi vantaggi. E allora uno si domanda, ma perché personaggi importanti che hanno sicuramente attingono a vantaggi che al 99% dei cittadini sono preclusi. È chiaro. E qui ci sono i nomi di tutti, c'è Pietro Grasso, presidente del Senato, Marini, c'è anche Marini, ecco, appunto oggi la vedo anche su Libero, c'è un'anticipazione. Vincino, Marini risulta proprietario insieme alla moglie di un grande loft romano di 14,5 vani, 300 metri quadri. Vabbè, più o meno, ai parioli. Nella zona di periferia. Accidenti, c'è anche la via, ma magari la via, ma è il civico. Tu dicevi come si fa? Ma se io nomino, ho dei membri di una fondazione da nominare, no, e lo nomino, ti nomino te. Poi questa fondazione ha 50 appartamenti che sappiamo che è cosa, vengo da te, come dire, è facile. L'accordo politico, certo, è così, questo è il trucco, Maurizio, quando i politici nominano i vertici degli enti che poi vendono le case, a chi vanno? Un magistrato, perché scusa, non è facile dire no a un magistrato. Un magistrato. Così funziona. Tu diresti collezionò tante case. Chi collezionò tante case? Quello, un magistrato, ci fu pure un caso di un magistrato, poi è entrato in politica e rovinato alla fine dalla Gabbanelli. Ma che 80 case, che quello querela, lascia perdere. Ma non abbiamo parlato, non abbiamo detto il nome, chi sarà mai? Non lo so. Sono due i modi per fare soldi, che uno è questo e un altro è comprarsi una casa editrice, una banca per il doppio di quanto vale e poi dopo A proposito, hai ancora il conto al Monte Paschi? Ho ancora non me ne parla, guarda, devo trovare il modello, sì, ho ancora il monte, cioè un disastro mondiale. Ho capito, ma cambialo, guarda che basta una firma, cambia. Devo trovare il tempo perché poi c'ho di fronte casa, sto uscendo di casa, mi viene una vignetta, allora mi fermo, faccio la vignetta e poi è già passato il tempo. È un produttore di schiavo di vignette, Ma la prima vignetta, non so, se fosse Marini al Quirinale, cosa faresti? Marini al Quirinale, allora vediamo un

Vedremo, questo lo trovate sul Corriere della Sera. C'è ancora tanta cronaca, io vi segnalo solo due articoli ancora per il secondo giorno consecutivo. Lo voglio fare, questa follia dell'esclusione di Fabri Fibra dal concerto del 1° maggio. Oggi si concentrano sia Andrea Scanzi con una pagina sul Fatto Quotidiano, pagina 14, Fibra, i bigotti del politically correct. Come un idraulico, scrive Scanzi, che prova ad arginare la perdita d'acqua del mare cercando un rubinetto da chiudere, il carrozzone del 1° maggio ha cacciato anzitempo Fabri Fibra, cioè il mare, brandendo la clava di una censura, il rubinetto, troppo masochistica perfino per Tafazzi. L'organizzatore dell'evento, Marco Godano, si limita a dire: non è nei nostri poteri rifiutare le indicazioni che ci arrivano dai sindacati. E insomma, è stato escluso Fabri Fibra perché accusato di scrivere testi contro la donna, humus da cui si genera la violenza. Adesso la violenza sulle donne, che è un dramma vero, sarebbe legato ad alcuni testi di Fabri Fibra, secondo qualche mente folle. Vabbè, i bigotti del politically correct, anche il secolo XIX, lei non sa cosa canto io, dopo il no a Fabri Fibra, racconta il secolo in una pagina molto bella, un po' tutte le censure che hanno subito i vari artisti, anche per il loro linguaggio, a volte sì, un po' esagerato. Vabbè, sempre cattive notizie, mi dicono. Io racconti sempre cattive notizie dai giornali. Ma come no? Prendi il giorno, disastro Inter. Questa è la prima pagina. Ma è che sempre cattive notizie? Vedete che a cercarle ci sono anche in prima pagina della Gazzetta. Destro da KO, Inter stramazzata. Non ditemi sempre che racconto delle cattive notizie. Sui giornali c'è anche tante cose buone, no? Basta cercarle. Sono anche lì, in prima pagina. Mattino, la politica nel tunnel. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Ci siamo, cari ascoltatori, alle 10 oggi in Parlamento riunito con anche i grandi elettori, gli elettori, quelli delle regioni. 1.007 persone sceglieranno, proveranno a scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Sarà Franco Marini? Sarà lui, e lui secondo voi, cari italiani, l'uomo che mette insieme un po', in quel segno di gesto di concordia, di unità nazionale, un po' tutti gli italiani, il PD, il PDL, i grandi partiti, vedete in lui l'uomo che rappresenta tutti, oppure vedete in lui l'ennesimo frutto di un inciucione che c'è stato? Leggendo oggi Repubblica si racconta la giornata di ieri di Berlusconi e Berlusconi e Bersani che si vedono a pranzo, e poi Berlusconi che di fronte a Bersani che gli offre Mattarella come nome per tutta la giornata dice di no, a D'Alema no, Amato non si riesce, e quindi alla fine si ripiega su Marini, e poi Berlusconi va anche a trovare Marini e si incontrano per avere, scrivere pubblica, rassicurazioni. Questo raccontato così sarebbe proprio frutto dell'inciucione. Che ne pensate? Ne parliamo con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Buongiorno direttore, eccoci. Buongiorno. Saluto anche Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Buongiorno, ben ritrovato. Allora, due giornali che io ho qua davanti, prima pagina del giornale, Marini presidente, anche se poi lei nell'editoriale Sallusti scrive che non è, insomma, entra Papa in conclave, ma poi chissà. E il Fatto Quotidiano, B&B inciucio sul colle. Ecco, sono proprio le due visioni che abbiamo oggi. Sallusti è l'uomo dell'unità che rappresenta tutti, Marini, oppure è un bieco inciucio? Ma no, il Presidente della Repubblica è un inciucio, è scritto sulla Costituzione che deve essere un inciucio, perché sulla Costituzione c'è scritto che deve essere eletto con la maggioranza più ampia possibile, perché deve rappresentare tutti gli italiani, bisogna che le forze politiche inciucino tra di loro per trovare un Presidente della Repubblica che vada bene a tutti. Quindi mi sembra un po' scorretto parlare di inciucio sul Presidente della Repubblica, non per mancanza di rispetto, ma perché è un inciucio il Presidente della Repubblica, per definizione. Voi Padellaro l'avete messo sulla prima pagina, sul titolo di prima pagina, avete anche scritto che addirittura Bersani sarebbe fuggito dal Teatro Capranica ieri da una porta laterale per evitare la contestazione di alcuni militanti del Partito Democratico. Cosa non va bene in questa scelta di Franco Marini, secondo lei? Ma innanzitutto vorrei dire che questa lettura di Sallusti della Costituzione è piuttosto bizzarra. Non si contano i presidenti della Repubblica nella storia italiana che sono stati eletti con un voto parziale, quindi mi sembra che tutta la storia del nostro paese dica, tranne qualche rara eccezione, che poi non ha portato bene. Io ricordo l'elezione di Cossiga al primo turno quasi plebiscitaria, che insomma è stata poi una presidenza molto travagliata. Ma il punto è questo: Bersani aveva due strade, la strada dell'interpretazione di un voto che è stato certamente un voto per il cambiamento della politica di questo paese, e c'era il candidato che gli è stato offerto su un piatto d'argento dal Movimento 5 Stelle, da Grillo, che era Rodotà. Rodotà è un signore dalla storia cristallina e dalle radici culturali di sinistra, è stato anche presidente dell'assemblea del PDS, che poteva essere e può essere benissimo votato dal Partito Democratico. E poi c'era la scelta invece di andare con la vecchia politica, lui ha scelto la vecchia politica e ha scelto un signore. Io vorrei qui uscire dall'ipocrisia, non è in discussione il personaggio, ma certo Marini come persona non è niente, insomma, non ha lasciato nessun segno nella sua storia politica, però un signore di 80 anni, Marini ha 80 anni. Anche Rodotà mi pare. Sì, va bene, anche Rodotà ha 80 anni, infatti ho detto che tra i due ottantenni la mia preferenza, la nostra preferenza sarebbe per Rodotà, ma devo dire che forse se si fosse trovato un candidato con una visione anche dei problemi, sì, di oggi, dell'attualità, più fresco, non sarebbe stato male. Quindi Bersani ha costruito, sta costruendo, ma secondo me avrà dei problemi grossissimi, questa candidatura, per poi avere la guida del governo. Berlusconi. Punta, è come dice Renzi, all'ossessione di diventare presidente del Consiglio. Assolutamente sì. Cioè dice, Sallusti, effettivamente, voi anche sul giornale, Sallusti, avete scritto ieri Berlusconi è sparito 3 ore in mattinata. Repubblica ha descritto quello che sarebbe successo, cioè questo pranzo a casa di Enrico Letta con Migliavacca, Franceschini, insomma, in cui è proprio il racconto di, come dire, sì, lei dice l'inciuccio c'è sempre, ma qui proprio dell'inciuccione, cioè, poi va a vedere Marini, vuole rassicurazioni, cioè è successo veramente così, è un po' difficile da digerire. No, ma non è che lo vuole Berlusconi, io non capisco perché Berlusconi, che rappresenta uno dei tre partiti che si sono divisi l'elettorato, non abbia, come dire, titolo per decidere. Cioè, se lo decide Grillo, il candidato presidente, dice Rodotà, allora bisogna inchinarsi di fronte a Grillo, il cui nome di Rodotà tra l'altro esce da un sondaggio via internet molto sospetto, molto dubbio, di cui nessuno ha certificato l'autenticità, cioè esce da qualcosa di molto oscuro, quel nome di Rodotà, che ha le stesse caratteristiche di Marini su un altro versante, la stessa generazione, la stessa ma se invece Berlusconi si muove per, come dire, cercare un presidente della Repubblica condiviso, allora ecco l'inciuccio. È vero che alcuni presidenti sono stati eletti senza inciuccio, ma nel senso che non c'era bisogno di inciucciare, perché già di loro rappresentavano l'inciuccio serena, rappresentavano, cioè, chi per esempio? La maggioranza del paese, ma mi riferisco a quei pochi, per la verità, presidenti eletti per esempio al primo turno. Mi viene in mente Cossiga, credo ci sia stato anche Ciampi, se non sbaglio. No, però, come dire, la Costituzione è chiara, dice che il Presidente deve rappresentare la più larga maggioranza possibile che si può costruire in Parlamento. Sì. E quindi bisogna la rabbia di Padellaro nei confronti di Marini, secondo me non è nei confronti del povero Marini, che non c'entra poco in questo senso, ma è sul fatto che il centrodestra, il PDL e Berlusconi sono ancora una parte attiva della politica italiana, mentre invece loro avevano già deciso che Grillo avrebbe spazzato via tutti. Chi volevano cancellare. Beh, ma tra poco glielo chiediamo su questo a Padellaro, però vorrei anche un pronostico da voi, perché oggi la stampa mette i numeri. Allora, ci vogliono 600 172 voti alle prime votazioni su 1007. La stampa toglie quelli del Movimento 5 Stelle, quelli della Lega, i renziani del PD, i Sinistra Ecologia e Libertà, eventuali franchi tiratori anche del centrodestra, che potrebbe esserci se arriva, li quantifica in 20-25, sarebbe a 677, quindi 5 sopra la soglia. Insomma, ce la fa o no? Sallusti, secondo lei ce la fa Marini al primo colpo o no? Ma dovrebbe farcela, se non ce la fa è una sconfitta di Bersani credo irrimediabile, perché se il segretario del partito che ha in mano il pallino candida una personalità del genere che non ce la fa, vuol dire che non ha più il controllo del suo partito e quindi deve trarne le conseguenze. Infibrillazione. Padellaro, ce la farà Marini? E risponda a Sallusti che dice in realtà voi volevate semplicemente spazzar via Berlusconi e vi rode il fatto che Berlusconi conta ancora politicamente. Ma no, assolutamente, vorrei rassicurare Sallusti, non c'è nessuna rabbia, c'è solo un'analisi della situazione che è desolante, lo vedono tutti, la giudicano tutti così. Io mi dispiace per Sallusti che è costretto oggi a ingoiare questo Marini sul giornale che lui dirige, insomma io penso, conoscendo un poco Sallusti e il giornale, che Marini sia proprio un nome che a Sallusti personalmente, al giornale, proprio non piaceva, però siccome Berlusconi ha deciso così, loro giustamente dal loro punto di vista dicono. No, ma scusa, non l'ha deciso Berlusconi, è una cosa. Vabbè. Berlusconi non poteva decidere il presidente della Repubblica, ha dovuto scegliere, però dentro una cosa di nome tra Marini e Rodotà, capisci bene che i miei elettori è il meno peggio, che sono così poco arrabbiato che devo dare atto a Berlusconi, e qui credo che sia giusto farlo, che sta giocando bene la sua partita. Io dico che è Bersani che sta giocando malissimo la sua partita. Berlusconi sta facendo esattamente quello che deve fare, cioè credo anche che sia giusto che Berlusconi, chi l'ha detto, partecipi alla creazione del nuovo capo dello Stato. Non abbiamo questa visione berlusconiana, ecco, della politica. Però il problema è chi fa poi il capo dello Stato. Sì. La nostra impressione è che la scelta di Marini, oltre a spaccare il Partito Democratico, e questa cosa certamente farà piacere a Berlusconi, è un candidato debolissimo. Sì, però Padellaro, è un candidato debolissimo che porterà nei prossimi 7 anni l'Italia non verso, no, quei nuovi traguardi di cui si parlava, verso all'indietro. Però ci Padellaro, se gli avesse proposto Rodotà, Bersani avesse proposto Rodotà, penso che Berlusconi gli avrebbe detto: ma come, Rodotà è stato più volte del Partito Comunista, gli avrebbe detto di no, credo. E quindi, ma esistono soltanto Rodotà e Marini in Italia per fare il capo dello Stato? Ma infatti c'erano la rosa sarebbe stata Amato, Mattarella, Marini e D'Alema. E Berlusconi voleva Amato. Ma io penso che se in buona fede, devo dire, tutte le forze politiche si fossero messe intorno a un tavolo, come chiede Sallusti, da questo punto di vista giustamente, per cercare l'uomo giusto e non l'uomo di parte o l'uomo che fa giochi o che aiuta a fare giochi, forse si sarebbe trovato un personaggio, magari una donna, ma non per la storia delle quote rosa, anche perché il 30% di donne in Parlamento, viva Dio, avrebbe anche diritto a eleggere un Presidente della Repubblica. Invece stiamo a Marini, 80 anni, un uomo che viene veramente dal secolo scorso, è incredibile. E poi bisogna vedere che succede oggi, sì, certo, perché oggi può succedere qualunque cosa. Può succedere anche che per esempio siano molti di più i renziani, perché il Partito Democratico non lo vuole. Infatti mi dica il suo pronostico prima di andare in pubblicità, ce la farà Marini? Il mio pronostico è che difficilmente può farcela al primo turno. E allora secondo basta, me non ce la fa. Se al primo, al secondo, al terzo, cioè nelle prime tre, con la maggioranza qualificata, se però Berlusconi e Bersani tengono duro, ce la farà quando la maggioranza richiesta scende, e quindi avremo Marini capo. Bisogna vedere se Bersani viene duro, se Bersani ha la forza per arrivare secondo alla me votazione. Se viene impallinato Marini, impallinato politicamente alle prime tre votazioni, sarebbe proprio, come dire, vabbè, insistere, sì, per carità, sarà difficile, però chi lo sa. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:35 minuti, 800 24 00 24, ancora con noi per una decina di minuti il direttore del giornale Alessandro Sallusti e il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. Poi avremo con noi Gino Strada, il fondatore di Emergency, che era arrivato secondo alle Quirinarie di Beppe Grillo. Allora, intanto sentirei Augusto da Roma, ci ha chiamato un ascoltatore. Augusto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, gli ascoltatori. Le piace Marini? Le piace Marini, che c'ha la pipa, come Pertini? Ma non discuto la persona, ma il personaggio. Oggi la dimostrazione è che Bersani ha perso completamente la strategia, non ha trovato la strategia giusta ed è caduto nella trappola del PDL. Mm. Il PDL voleva dei nomi vecchi proposti dal PD proprio per rimarcare che il PD non è capace di indicare dei personaggi nuovi che riescono a cogliere il senso della novità e della situazione attuale. E quindi... Tanto è che Sallusti l'ha già detto e dichiarato: se non passa Marini non è la sconfitta del PD-PDL, ma la sconfitta di Bersani. Eh beh, certo, è il nome proposto dopo un accordo dal PD, e quindi se viene impallinato è il PD, insomma, è Bersani che ci fa la figura soprattutto, no? Esatto, quindi è riuscito a dividere Sell dal PD, a spaccare il PD, Berlusconi ha vinto. Ancora una volta la zampata del Caimano. Va bene, grazie Augusto. Antonello da Padova, buongiorno. Buongiorno, niente, volevo solo dire che secondo me Bersani, per perseguire praticamente il suo scopo di diventare Presidente del Consiglio, ha fatto l'ennesima figura veramente pessima, veramente squallida, bassa, cioè proporre uno come coniglio del cilindro come Marini, ma non per criticare la persona, ma proprio per non dare ascolto alla proposta che aveva fatto Grillo, cioè da lì si capisce. Ho capito, ma scusi, volontà... ma perché deve essere obbligato ad ascoltare Grillo? Lo stesso Renzi gli ha detto: non ti fare umiliare all'ascolto. Perché doveva per forza ascoltare Grillo? Le alternative possibili, lasciamo perdere la Gabanelli che intelligentemente si è sfilata, perché è come se avesse messo su un piatto d'argento uno come Rodotà, che io personalmente non lo conosco, però si vede chiaramente che è una persona più cristallina, meno soggetto, mi scusi, ma sono un po' anche emozionato, all'inciuccio di quello che può essere uno come un ex sindacalista, come Marini, o D'Alema, Baffino, quella gente lì. Ma da qui si capisce quanto basso è anche Bersani. Gli dirò, secondo me Bersani porterà proprio allo sfacello il PD e la sinistra. Ma ragazzi, tre mesi fa veniva salutato Sallusti, veniva salutato come il premier certo. La politica si mangia tutto in pochi mesi. Addirittura, vabbè, questi ascoltatori dicono porterà tutto allo sfacello. Ma Renzi se ne dovrebbe andare, secondo lei, Sallusti nel PD? Beh, io credo che il PD, così come l'abbiamo conosciuto fino a oggi, d'ora in avanti non sarà più così, quindi io non so se ne andrà Renzi o se ne andrà Bersani, ma certo qualcosa dentro lo schieramento di sinistra succederà, e questo non è un male né per la sinistra né per il paese, perché il problema di questo paese non è stato, come ci hanno voluto far credere, il berlusconismo, ma la mancanza di alternativa al berlusconismo. Allora, ancora una volta la sinistra dimostra che non è un'alternativa al berlusconismo, l'ha già dimostrato quando ha governato, perché è una coalizione che non sta in piedi, l'ha già dimostrato quando è caduto Berlusconi, che non è stata in grado di prenderne il posto, lo ha dimostrato oggi, che nonostante abbia vinto, sia pure per manciata di voti d'elezione, non è in grado di governare. Allora vuol dire che il problema è nella sinistra, e quindi un terremoto dentro la sinistra non può essere che salutare per il paese, perché vuol dire che molto probabilmente nascerà una forza più socialdemocratica o socialdemocratica, che sarà a quel punto una alternativa. Alternativa al centro-destra. Padellaro, però si dice sempre il PD in subbuglio, eccetera, ma la maggioranza sta ancora con Bersani, voglio dire, la maggioranza dei dirigenti, la maggioranza dei parlamentari, i numeri stanno, cioè Bersani potrebbe dire: oh, ma voglio dire, di là sono molto rumorosi i renziani, ma noi siamo ancora allo zoccolo duro del partito, cosa volete? Ma se Bersani si accontenta di avere la maggioranza di un partito sfasciato, è contento lui. Ma insomma, anche le telefonate degli ascoltatori lo dicono, oggi c'è un Partito Democratico sfasciato in tanti pezzetti, e questa è la realtà. Poi alla fine magari riuscirà anche a fare eleggere Marini, Ma è evidente che Bersani non sta seguendo la strategia giusta, ma è chiaro fin dall'inizio, ha dato prova di avere delle idee confuse, una trattativa con Grillo, con 5 Stelle, abbastanza paradossale, visto che Grillo aveva detto fin dal primo momento che non avrebbe mai fatto un governo con Bersani, ma devo dire anche con una certa coerenza, ma con tutti gli insulti che si sono dati, no? Si sono rivolti durante la campagna elettorale Bersani e Grillo, ma con che faccia si poteva poi fare un'alleanza? Voglio dire, Grillo, con tutti i suoi difetti, e ne ha tantissimi, l'inesperienza, almeno dimostra in questa politica una linea di coerenza che gli altri non dimostrano. Io vorrei dire a Sallusti che sono d'accordo sul fatto che il berlusconismo esiste perché non si è trovato un'alternativa, è così in questi anni, non si è trovato un'alternativa, ma anche il Popolo delle Libertà non sta messo meglio, è ancora una volta dovuto ricorrere a Berlusconi dopo 20 anni per riuscire a fare una campagna elettorale dove peraltro ha perso 6 milioni di voti. Beh, io dico il Popolo delle Libertà è Berlusconi, cioè non è Padellaro, non è il Popolo della Libertà, è Berlusconi, senza Berlusconi il centrodestra è lo sfascio. Ma è verissimo, ma questo è terribile per un centrodestra che se non ha Berlusconi non esiste, e questa è una riflessione che a destra dovrebbero fare. Questa Sallusti è effettivamente un po' così, ricordiamo, non erano anni fa ma 4 mesi fa che i sondaggi davano al disastro, Alfano eccetera, poi se non si metteva in campo Berlusconi ma io l'ho sostenuto in tempi non sospetti, io sono d'accordo con chi sta conducendo, cioè il centrodestra attualmente in Italia è Berlusconi, quindi senza Berlusconi è un altro film, potrebbe anche essere un film interessante, ma è un altro film. Io però vorrei spezzare una lancia a favore di Bersani. Pronto? Sì, sì, ci siamo. Ah, ecco, una lancia a favore di Bersani, perché il povero Bersani si è trovato in una situazione in cui da solo non può governare, non ha i numeri per governare, quindi ha offerto a Grillo governiamo insieme, Grillo gli ha detto di no, non è che è una sua scelta politica, non può che terzi finire un dato, a trattare col PDL, però perché la terza via non è data. La domanda però, Sallusti, è questa, quindi, mettiamo che regge l'accordo Marini al Quirinale, che vuol dire? Poi Bersani vuol fare il Premier, Berlusconi sostiene questa cosa? Dovrebbe sostenerla? Ma io, Berlusconi ha sempre detto che non ha nessuna, vuol dire non è felice che Bersani faccia il Premier, questo è evidente, ma avendo vinto le elezioni il PD non è che può opporsi a questa possibilità. Però io credo che con tutto quello che è successo vedo difficile che Bersani faccia il Premier di una coalizione che in qualche modo, chiamiamola di larghe intese, di appoggio esterno, non lo so come finirà. Ma non credo che possa essere lui l'uomo del dialogo l'uomo di ho capito, ma così viene così viene cornuto e mazziato, ha messo il nome che voleva Berlusconi e non fa neanche il governo alle spalle al muro. Io credo che ci sono dei personaggi del PD che potrebbero meglio interpretare nel caso di che si vada a governare in qualche modo insieme al centrodestra, potrebbero meglio rassicurare i propri elettori e in generale il sistema rispetto a un'alleanza col PDL. Insomma, noi staremo a vedere. Intanto io vi ringrazio, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, e Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Oggi alle 10, prima votazione, vedremo come va a finire e se ci sarà subito il nome del Presidente della Repubblica. Prima di salutare Gino Strada, da cui andremo per la parte finale di 24 Mattino, Salvatore da Roma, un altro ascoltatore che ci ha chiamato all'800240024. Salvatore. Sì, buongiorno Milano. Dica. Sono rimasto un po' sconcertato su Marini, la candidatura di Marini. Oh, ma non c'è qualcuno che gli piace Marini? Non lo so. Ma le dirò, senza tema di smentite, faccio un salto indietro di 21 anni alle elezioni politiche del 1992. Lei forse è giovane, non si ricorderà, lo rammento io. Sì, nel 92, all'indomani delle elezioni dell'elezione così diciamo di Andreotti a senatore a vita, nel Lazio, le politiche ci fu un duello acerrimo tra Marini e Sbardella. Sbardella, il grande Sbardella. Lo squalo Sbardella. E che successe? Non me la ricordo. Successe che mi sembra che fosse il 18-19 marzo di quell'anno, prima delle elezioni. E allora? All'Hotel Cavalieri Hilton di Roma, quella sera, un certo Franco Marini, che era appena uscito dalla CISL, di cui era segretario, offrì una cena mega galattica a 2800 post telegrafonici della CISL in quell'albergo. Ma c'era anche lei? No, io stavo, per fortuna stavo alla pergola, all'ultimo piano, a una cena di lavoro. Io ho speso 110.000 lire quella sera per partecipare. Vabbè, ma questo per dire che cosa? Che un uomo della vecchia palude, del clientelismo. Clientelismo di una volta, ma che vuoi? Questa è la novità che presenta il PD. Marini. Ma vergogniamoci tutti quanti di Marini, di del PD, ma veramente vabbè, Salvatore, lei proprio vergogna. È scoratissimo. Va bene, Salvatore, io la ringrazio anche per questa testimonianza dell'epoca. Voglio salutare, poi saremo con lui dopo il traffico, Gino Strada, fondatore di Emergency. Buongiorno Gino Strada. Buongiorno. Eccoci qua. Allora abbia pazienza, un minuto dopo il traffico sono da lei per cercare di leggere tra la politica e la non politica questo momento del paese. Eccoci qui allora fino per questi 8 minuti fino alla chiusura di trasmissione con Gino Strada, fondatore di Emergency. Allora Strada, intanto una lettura, so che lei si vuole sempre tenere lontano dalla politica, ma insomma è stato nominato numero 2 alle Quirinarie, quindi c'era anche la possibilità che lei accettasse dopo la rinuncia a Gabanelli di la nomina a Quirinale? No, io ho mandato una lettera ieri spiegando perché ritengo sia meglio che io continui a fare il mio lavoro, perché di curare persone, e contemporaneamente ho fatto notare che la candidatura di Stefano Rodotà credo sia la migliore che oggi il nostro paese può darsi per avere un capo dello Stato che rappresenti i valori nei quali molte persone continuano ostinatamente a credere, cioè l'uguaglianza, i diritti civili, la Costituzione, soprattutto i problemi delle persone, i problemi degli italiani che oggi sono drammatici. Cosa vede invece in questa scelta di Marini, secondo lei, un ricorso alle vecchie logiche della politica, come dicono? Beh, non mi sembra certamente una scelta di novità e di cambiamento, ecco, mi fermo lì per non incorrere poi in polemica assurda. Ma secondo lei perché sono stati scelti, diciamo, due esponenti al primo e al secondo posto? Hanno scelto Milena Gabanelli, c'è cioè una giornalista molto apprezzata, poi lei, diciamo, due esponenti della cosiddetta società civile, se vogliamo, rispetto alle scelte tradizionali della politica? Ma credo che questo esprima in generale la voglia di cambiamento. In questo paese c'è una classe politica che, come dire, è immobile, non cambia, va avanti a fare le cose che ha fatto e che hanno portato il paese in questa situazione da qualche decennio, quindi penso che sostanzialmente rappresenti quella voglia di dare una sterzata, vista la situazione assolutamente catastrofica del nostro paese. Però Rodotà in qualche modo non è un po' la stessa, anche lui insomma ha fatto parte, è stato un politico di lungo corso, un uomo comunque abituato a trattare con la politica da sempre. Perché è l'uomo del cambiamento secondo lei? Secondo me Stefano Rodotà ha delle qualità morali difficilmente riscontrabili nella cosiddetta classe politica. Direi che è una persona specchiata, competente, integra moralmente, una persona socialmente sensibile, mi pare una bellissima scelta. Che cosa ci vuole secondo lei in questo paese per cambiare? Lei credo nel comunicato in cui annunciava la rinuncia, comunque dico continuo a fare il lavoro che faccio, l'opera che facciamo con Emergency, ha detto ci vorrebbe però qualcosa soprattutto sul lavoro, la sanità, la scuola, cosa si aspetterebbe non tanto dal nuovo inquilino del Quirinale, ma da un nuovo paese, da una nuova Italia? Beh, che su questi temi ci sia una politica seria, non una politica di ingiustizia sociale. La sanità italiana, una delle migliori del mondo, qualche decennio fa progressivamente sta diventando, come dire, una merce disponibile a quelli che possono permetterselo. Questo non ha niente a che vedere, tanto per cominciare, con la nostra Costituzione, ma neanche con un'idea di società. e mi aspetterei che questo cambiasse, lo stesso per la scuola pubblica, insomma, vorrei che tornasse ad essere una scuola pubblica e che i soldi per l'istruzione, per la ricerca, che sono soldi delle tasse dei cittadini, vadano all'istruzione e alla ricerca, non a qualche investitore del settore. Ma è vero che per la prima volta state facendo anche delle raccolte fondi per affrontare il tema della povertà e delle difficoltà in Italia? Insomma, Emergency di solito opera in tutto il mondo. Ma noi abbiamo deciso, non da oggi, anche se tutto questo avviene ovviamente nel silenzio della maggior parte dei media, è dal 2005 che Emergency ha aperto un poliambulatorio a Palermo per chi non ha più possibilità di permettersi cure mediche. Pensavamo all'inizio di doverci rivolgere, che i nostri pazienti sarebbero stati migranti, invece vediamo che sempre di più sono cittadini italiani che non possono permettersi di pagare il ticket. Riceviamo almeno 10 telefonate al giorno di persone che ci chiedono di potergli pagare il ticket perché non possono permetterselo, quindi non possono fare esami, non possono permettersi terapie, eccetera. Questa cosa ci ha convinto che anche in Italia c'è un problema serio, molto serio, di diritti umani che vengono ormai calpestati regolarmente, per cui poi abbiamo aperto un secondo poliambulatorio a Marghera, poi abbiamo incominciato con degli ambulatori mobili su autobus a seguire il percorso dei migranti, il percorso dei raccolti, insomma, in Puglia, Calabria, Sicilia. E adesso stiamo pensando di aprire altre strutture sanitarie gratuite e di qualità. Quindi tutto questo, dice, potrebbe essere un'emergenza da affrontare anche quella che lei vorrebbe fosse affrontata dalla politica. Ma dica la verità, in conclusione, non ha mai pensato neanche per un secondo di accettare la nomina, anche se sarebbe stata la nomina numero 2 dopo la rinuncia della Gabanelli? Gino Strada al Quirinale, cioè, il discorso di fine anno di Gino Strada al Quirinale. Non ci ho mai pensato, ovviamente per correttezza ho aspettato che ci fosse la decisione ufficiale di Milena Gabanelli e subito dopo ho dichiarato anch'io la mia indisponibilità, ma non perché, come dire, la cosa non faccia piacere di essere nominati, è ovvio che questo esprime un apprezzamento per il lavoro di Emergency, ma bisogna anche tenere conto di quello che uno sa fare e di quello che altri potrebbero fare. Credo che Rodotà sia la persona assolutamente più indicata. Noi continueremo a fare il nostro lavoro anche in Italia. La raccolta fondi che stiamo facendo in questi giorni attraverso una campagna di SMS al 45505 è una raccolta fondi proprio per sostenere il programma sanitario di Emergency in Italia. E quindi, insomma, staremo a vedere. Intanto in bocca al lupo per quello che è un'iniziativa che anch'io sottoscrivo, questo sì. Grazie a Gino Strada. Come andrà a finire? Chi lo sa? Sarà Franco Marini? Ma non lo so. Io faccio il mio pronostico. Perché l'ho detto prima alle 6:30, ma magari razza di debosciati non eravate ancora svegli. Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Ma certo, Massimo D'Alema. Ma è chiaro, Massimo D'Alema, Presidente del Consiglio, quello l'ho già detto da un po', Fabrizio Barca. E se vinco mi offrirete il caffè. Mi accontento di un caffè, anche liscio. Ci sentiamo domattina alle 6:30.